America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Varsavia. Mario Platero, sono al seguito del viaggio del presidente Barack Obama in Europa, questa prima tappa in Europa orientale, perché la tappa di Varsavia riguarda anche l'alleanza con gli altri paesi dell'Europa dell'Est, si è concentrata naturalmente sulla crisi ucraina. Sentiamo il presidente Barack Obama pochi minuti fa, quando ha chiuso la sua conferenza stampa con il presidente polacco Komorowski. I'm calling on Congress to approve up to $1 billion to support this effort, which will be a powerful demonstration of America's unshakable commitment. Ecco, avete sentito, il presidente Barack Obama intanto ha dato una notizia, ha detto di voler stanziare $1 miliardo per rafforzare la presenza delle truppe americane nell'Europa orientale, per rafforzare la NATO, per dare, come dire, un messaggio tangibile, molto concreto a coloro che in Europa dell'Est temono magari di restare indietro, di restare isolati. Ci sono state altre tematiche importanti che ha toccato il presidente americano e che saranno affrontate più tardi nel corso della conferenza dei paesi dell'Europa orientale qui a Varsavia, una conferenza per la solidarietà, e cioè ha parlato anche di energia e di economia. Ma la risposta di Komorowski, come dire, è stata altrettanto chiara e altrettanto forte dal punto di vista della necessità di rispondere con energia alle azioni, alle provocazioni di Vladimir Putin e di Mosca. Zgodziliśmy się, że to, co wydarzyło się w Lizbonie, to jest swoiste odnowienie. Ecco, avete sentito, Komorowski dice: la Russia deve smetterla di applicare la violenza contro i suoi vicini o di continuarla con queste provocazioni. L'Ucraina deve essere libera, basta con le violenze. Vorremmo che ci fossero davvero buone relazioni fra Russia e Ucraina. Se la Russia rispetta le leggi internazionali, beh, a quel punto potrebbe esserci, e questo lo ha ribadito lo stesso presidente Barack Obama, una forte cooperazione tra la Russia e la NATO. Poi Komorowski ha continuato: siamo tutti sulla stessa posizione qui in Europa orientale. E a quel punto anche lui ha dato una notizia. Voglio darvi la notizia che il popolo polacco, la mia proposta in nome del popolo polacco è stata quella di aumentare il nostro impegno nel bilancio della NATO, e incoraggeremo gli altri paesi membri della NATO a fare lo stesso. Quindi un messaggio importante, questo devo dire, che non riguarda soltanto i paesi dell'Europa orientale, ma che riguarda anche noi, riguarda anche l'Italia. Raccomanderò, ha detto al Parlamento, di aumentare il bilancio delle nostre forze armate fino al 2% del PIL, un aumento tangibile e importante che potremmo sopportare grazie alla crescita economica, e questo ci consentirà di ammodernare le nostre forze. Altro tema forte, ve l'ho accennato in apertura, è la questione della sicurezza energetica. Se ne parlerà molto questo pomeriggio nel vertice per la solidarietà, al quale parteciperanno, come dicevo, gli altri paesi dell'Europa dell'Est. È chiaro che non ci sarà sicurezza politica, ma anche sicurezza economica, se non c'è sicurezza energetica, se non c'è autonomia energetica. Barack Obama cercherà di mettere a punto delle proposte per poter usare, utilizzare il surplus energetico americano che si sta in qualche modo materializzando, per poter dare queste garanzie all'Europa, e devo dire non soltanto all'Europa dell'Est, ma all'Europa in generale. Ci sono delle leggi che per ora limitano la possibilità americana di esportare energia, ma sono sicuro che queste leggi cambieranno, soprattutto nel momento in cui l'America potrà diventare esportatore netto di energia, e quindi non avrà più bisogno di importare risorse energetiche grazie alle scoperte dello shale gas, insomma di queste nuove tecnologie per recuperare sia gas che petrolio. L'aiuto energetico attraverso nuove forme di esportazione da parte degli Stati Uniti dovrebbe aiutare non soltanto la Polonia e gli altri paesi dell'Est, vi dicevo, ma il resto dell'Europa a essere più indipendenti dal gioco di Mosca. Mosca può chiudere il rubinetto delle forniture energetiche in qualunque momento. Ecco, c'è stato anche naturalmente un ingresso a gamba tesa della politica interna americana. Sentiamo. The United States has always had Barack Obama affronta la questione Bolberdale. Ho parlato con colleghi americani, quelli mi dicevano: beh, certo, l'Europa, l'Ucraina, la Russia, tutto molto importante, però per noi la vera cosa importante in questo momento è capire che cosa succederà con la vicenda Bolberdale. Berdale è il soldato americano liberato in Afghanistan con uno scambio di prigionieri, scambio di prigionieri da Guantanamo, 5 prigionieri in cambio della libertà di Berdale. La polemica esplosa violentissima, lo avrete seguito sui giornali, perché i repubblicani dicono: intanto si dà una dimostrazione di debolezza, perché si tratta con i rapitori, e in secondo luogo questo Berdale era un disertore, dunque mai e poi mai lo si sarebbe dovuto liberare. E Obama ha risposto, dice: beh, dice, non lasciamo i nostri soldati indietro, questa è una nostra, un nostro principio assolutamente indissolubile, ci siamo consultati con il Congresso per molto tempo sulla possibilità di uno scambio di prigionieri, dunque, dice, non è stata una decisione autonoma nostra, quando abbiamo visto l'opportunità l'abbiamo raccolta. È un disertore? Beh, questo non lo sappiamo, l'importante è liberare un soldato, lo stiamo assistendo dopo 5 anni di prigionia, non è in condizioni di riferirci quello che è successo davvero, però la libertà di un soldato per noi resta importante. Una risposta, secondo alcuni, poco convincente, proprio nel momento in cui Barack Obama deve venire in Europa per dimostrare a Putin di essere il rappresentante di un governo forte che non cede davanti alle minacce. Ecco, questo elemento di debolezza, secondo me, rischia di turbare questo viaggio, o comunque questo messaggio che anche questo pomeriggio il presidente Obama cercherà di trasmettere. Infine, da parte di Obama, un'apertura nei confronti della Russia. Cerchiamo di dialogare. Dialogate con l'Ucraina emersa dalle nuove elezioni. Per ora è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.